Technically speaking, and a few years ago, I would say it was quite a nightmare because it's quite obvious now. Tecnicamente parlando, qualche anno fa sarebbe stato un incubo, perché oggi in un mondo pieno di reti Wi-Fi è quasi ovvio essere connessi nelle più importanti città mentre si è a casa o in un albergo. È molto diverso, molto più difficile su un treno che viaggia a grande velocità. E infatti oggi e ancora per alcuni anni l'unica soluzione è quella che chiamiamo satellite bidirezionale, abbinato al Wi-Fi in alcune specifiche zone, ad esempio in un tunnel, in una stazione chiusa o in zone particolarmente impervie. Quindi il satellite è utilizzato assieme ad una serie di hotspot Wi-Fi lungo i binari o nelle stazioni. Direi che utilizziamo il satellite per l'80-90% del tragitto supportato dal Wi-Fi quando è necessario. Backupped with a Wi-Fi solution when needed.